America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, prima di cominciare con la tematica di oggi dedicata all'euro e nel caso della prospettiva di New York l'euro visto in un contesto di possibili crisi geopolitiche, vorrei anticiparvi che forse già oggi o comunque nei prossimi giorni, quindi sarà una settimana importante da quel punto di vista, la Corte Suprema americana esprimerà il suo giudizio sulla costituzionalità o meno della riforma sanitaria di Barack Obama. Sarà una sentenza svolta non solo per la Casa Bianca, ma per le elezioni. Ma torniamo al tema di oggi. What we expect, the substance of this new dynamics is a transformation and change is needed based on a consistency, integrity of stability and freedom together. Il ministro degli esteri turco Ahmet Davologlu, che interviene intanto spiegando il perché della richiesta turca di una riunione della NATO che si terrà domani mattina dopo l'abbattimento di un caccia dell'aviazione di Ankara da parte della contraerea siriana. La situazione si riscalda e nel contesto in cui ve l'ha fatto ascoltare il ministro cercava di spiegare quanto importante sia perseguire la libertà e la stabilità. La Turchia non vuole delle azioni belliche, non vuole la guerra, vuole, e qui si riferiva naturalmente anche a quel che sta capitando in Siria e in altri paesi del Medio Oriente, delle evoluzioni pacifiche verso la democrazia. Comincio a parlarvi di questa situazione piuttosto difficile, tesa, drammatica, ancora priva di una soluzione concreta, perché questa è la settimana dell'euro, questa è la settimana in cui ci saranno i grandi incontri al vertice per definire l'architettura europea sia di breve termine che di medio-lungo termine e quindi le misure di stimolo per la crescita, ma anche le decisioni importanti sull'unione bancaria, sull'unione fiscale, chissà, forse anche sull'unione politica. Qualcuno già dà delle scadenze: 2013 per l'unione bancaria, 2015 per quella fiscale, 2020 per quella politica. I mercati restano tesi, l'incontro di Roma ha prodotto dei risultati, naturalmente il dibattito è un dibattito molto europeo, ma vorrei contribuire a questo dibattito, a questa centralità dell'euro di questa settimana, discutendo di un tema che ho affrontato altre volte qui ad America 24, e cioè i rischi a cui viene esposta la polveriera mediorientale, anzi le due polveriere mediorientali, perché da una parte abbiamo la polveriera siriana e siriana turca in questo frangente particolare, dall'altra la polveriera iraniana. La domanda di fondo che molti si pongono è: beh, cosa succederà se in questo contesto di instabilità, di incertezza, di fragilità psicologica dei mercati dovesse all'improvviso esplodere una guerra? Europe's disorder is a grand opportunity for Russia. It's not all good news for the Kremlin. It will be hurt economically, but geopolitically, this is the moment. Your thoughts? I think from the Russian point of view, absolutely the euro crisis gives them more leverage in the European context. Avete sentito uno spezzone di un'intervista della Fox News con l'ambasciatore Bolton, che è stato il rappresentante permanente all'ONU degli Stati Uniti d'America. Il quadro di questa situazione di cui vi ho parlato prima, cioè la crisi fra Turchia e Siria per l'abbattimento del jet, fa parte di una partita diplomatica molto più vasta, una partita pericolosa, una partita che va molto oltre la Siria e il recente attacco contro il caccia turco. È una partita questa che mette in gioco lo scudo antimissile formalizzato durante il vertice NATO di Chicago, mette in gioco l'intero scacchiere medio orientale e appunto la Russia. La Russia, che è uno strenuo difensore di Damasco, l'Iran, alleato siriano, e è a sua volta controparte inconcludente di un negoziato per le palesi violazioni di Teheran degli accordi contro la proliferazione nucleare. Però vorrei a questo punto fare un piccolo passo indietro e parlare dei fatti, perché che cosa è successo? Beh, è successo che la Turchia ha chiesto che ci fosse una convocazione della NATO in base all'articolo 4. L'articolo 4, lo ricordo, è l'articolo che sostiene che un attacco contro uno dei membri dell'alleanza è un attacco contro tutti, e questo questo incontro è stato convocato per domani a Bruxelles. La ragione, lo avrete visto nelle cronache, c'è stato l'abbattimento di un caccia Phantom F4 da parte delle contraeree siriane. Il ministro degli esteri turco, che abbiamo ascoltato poco fa, Davutoglu, ha ammesso che il caccia turco in effetti ha violato brevemente le acque territoriali siriane, ma solo per pochissimi istanti, certamente non in profondità, dopodiché è uscito dalle acque territoriali e ha sottolineato che quando è stato abbattuto il caccia turco era in acque internazionali e non è mai stato avvertito. La Siria contrattacca dicendo no, invece era nelle nostre acque territoriali, e soprattutto la Siria sostiene che la Turchia consente a terroristi, così vengono definiti, nell'Occidente li chiamiamo ribelli che vogliono la democrazia, consente ai terroristi di infiltrarsi al confine fra Turchia e Siria e di destabilizzare la situazione siriana. Basta? Beh, vorrei aggiungere un altro tassello, perché per dare un quadro completo alla complessità della situazione di cui dobbiamo tener conto, bisogna anche prendere atto che questo caccia turco è decollato dalla base Malatya Air Ak. Questa base ospiterà il nuovo sistema radar antimissile che dovrebbe proteggere l'Europa da possibili attacchi nucleari iraniani. E questi sistemi antimissili sono stati formalmente approvati, come vi dicevo, durante il vertice NATO di Chicago il 20-21 maggio scorso. 4 paesi, Turchia, Polonia, Spagna, Romania, ospiteranno queste basi radar. È un progetto che sarà concluso nel 2018, ma è un progetto che irrita profondamente Mosca, perché Mosca sostiene che lo scudo antimissile non sarà soltanto per neutralizzare possibili attacchi da parte dell'Iran o comunque missili a testata nucleare dell'Iran, ma potrebbe essere immediatamente ridiretto e neutralizzare i missili russi. L'equilibrio fra Russia e Stati Uniti poggia sulla deterrenza e dunque la Russia teme che ci sia una manovra molto più vasta. Allora, è casuale che i siriani abbiano abbattuto questo caccia che arrivava da questa base che ospiterà i radar antimissile? Qui entriamo nelle congetture, naturalmente non possiamo saperlo, ma è soltanto un elemento in più, non secondario, per darvi un'idea di quanto la situazione sia molto tesa e con molte sfaccettature. Una di queste è la seguente. A mio sguardo, abbiamo trovato molti punti di contatto. Vladimir Putin è in viaggio in Medio Oriente, oggi in Israele, parteciperà poi a una cena di Stato con Shimon Peres, ma io credo che troverà in Benjamin Netanyahu pane per i suoi denti. Sappiamo che Putin disprezza un po' Barack Obama, lo ritiene un debole, e abbiamo visto come nel vertice allo Scabos, insomma, i due non sono andati d'accordo e devo dire Putin non ha trattato troppo bene Barack Obama. Però Putin gioca al rilancio, arriva in Medio Oriente cercando di fare da cerniera sia per una soluzione alla crisi siriana sia per una soluzione alla crisi nel negoziato per il disarmo nucleare dell'Iran. Non so se ci riuscirà, ma certo che se dovesse essere lui a fare dei passi in avanti, a quel punto spiazzerebbe l'America e riuscirebbe sicuramente a portarsi in avanti dal punto di vista del prestigio internazionale della Russia. Per chiudere, questi pochi elementi che vi ho appena dato vi danno un'idea che la crisi fra Turchia e Siria per l'abbattimento di questo jet è soltanto una parte dell'equazione politica diplomatica che si sta negoziando in questi giorni, in parallelo naturalmente a quello che succede sul fronte dell'euro. Si arriverà a un possibile scontro armato? Io non credo, anzi posso dirvi, avendo parlato con importanti fonti diplomatiche, che la NATO esprimerà una condanna ma non scenderà sul piede di guerra contro la Siria. Io credo che alla fine si andrà alle Nazioni Unite, si cercherà di passare una risoluzione. Ecco, di nuovo entra in campo la Russia. La Russia non vuole risoluzioni delle Nazioni Unite molto dure contro la Siria, ricordiamolo. La Siria e l'Iran sono molto legate. L'Iran utilizza il corridoio siriano per portare armi a Hezbollah. Hezbollah è un elemento di destabilizzazione contro Israele. Dunque, perdere la Siria, dove tra l'altro la Russia ha una base navale importante, sarebbe molto, molto grave. Una situazione potenzialmente esplosiva. Speriamo che alla fine non esploda, speriamo che prevalga la diplomazia, perché l'euro certamente, con tutti i problemi di cui sta soffrendo, non ha bisogno di dover affrontare e superare anche il rischio di una guerra nel cortile di casa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive a sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Si parlerà molto, come vi ho detto, di euro, di vertice europeo in arrivo, di Grecia, Germania, Spagna, problemi, rischi geopolitici, come vi ho raccontato in questa trasmissione. Beh, la National Public Radio americana ha raccolto una serie di canzoni molto spiritose sulla crisi europea e sono già viral. Una di queste è del cantante country Merle Hazard, Greek Debt Song, la canzone del debito greco. Yes, the Greeks gave us Pythagoras and Euclid and Plato and other wondrous stuff. But balance in their national budget, their budget apparently is tough. They used derivatives from Goldman, expenses to postpone. Had to go to France and Germany to get a bailout loan. They borrowed short at a lower rate. Like the Wall Street brokers, we have grown to hate. And when the markets get into they won't buy your paper if it's rated junk. The budget problems of the Greeks are a European pain. I hope it doesn't spread to Portugal, Italy or Spain. The ECB and IMF have applied their expertise to keep the European Union from crumbling, just like feta cheese. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!